se no io salgo su, metto, se metto il palo, poi voglio vedere che davvero le matracche, ma davvero per me. Ma non è come la mia l'antenna, la capisci? Vai, finirà. Avanza, vai, finirà. Fai ragione tu, anche tu, sei il più forte. No, non ti sto dicendo che sono il più forte, Natalia, mi stai fraintendendo. Ti sto dicendo che se io metto 6 metri in palo, qua sono cavoli a mare. Ma se mi pongo in capo, dici più forte di te e sono più forte di te. Davvero, sì, va bene, la prossima settimana vediamo. Mia sta campagna ne farò qui tu con i valvoli. Mica un bicchio pure io, la poi voglio vedere. Non sono sicuro neanche se funziona qua. Mi scatterà il contattore sicuramente. Siamo calmi, che facciamo una chiacchierata e basta. Perché io sono mezzo mancante me. Ah va, che non c'è via la mania di potenza, ma non sei tu che c'hai la mania della potenza. La puoi far vita in sasso, mi bastano 2 fatte e mezzo. Perché io parlavo con 2 fatte e mezzo. Papà, va, facciamo così i sedi, dai. Fatto da Franchi. Che baracchino non serve per fare le gare. Serve per parlare e per stare in compagnia. Tu ricordati una cosa, che non abito più a latte dolce. Ricordati sempre quello, che io qua basta che apro la finestra e posso che voglio. È perché sono io che no, non mi interessa. Se non metta di no che posso che voglio, posso. Se pongo poco, pongo una cara e so che attende. Ehi, ma ascolta, io manie di potenza non ne ho. Se avessi manie di potenza, avrei usato il lineare, perché non ne ho neanche qua, cosa me ne posso? Ma fammi già in sassari. No, non è che ne uso neanche io, lo uso così, giusto per provare a giocare così, no? Ma guarda, adesso ci sono veramente 10 watt, no, non è che... Non sto tirando niente. E stai uscendo più forte di me. No, non so quanto le stai dando tu. 2 fatte e mezzo ti sto dicendo. Cavolo, anche con quello che c'ha Antonello, uscivo con 2 fatte e mezzo, io già te lo puoi dire lui. Pagappa. Io purtroppo questo qui. No, adesso se vuoi abbasso ancora, non è un problema. Non mi interessa, adesso io poco fa stavo giocando, stavo scherzando, ma questo io lo uso meno possibile, mi. A che ghiaccio devi stare attento, capito Natale? Già lo so, tu basta che metti un watt e ti sente tutto sassa di là dove sei. Già lo so, già. E allora, bisogno di attaccare, di va, di ghiaccio, di ghiaccio. Già lo so che stavi scherzando. Io pure stavo scherzando quando ho alzato un pochettino. Anzi, sono contento che sono venuto in questa casa, almeno c'ho tutto per me, non mi rompo le scatole nessuno. Beato te, c'hai anche la posizione meglio della mia. Ma quello non penso. Eia, sei più in alto di me, non ti preoccupare tu. E se non sei più in alto di me, sei un bari. Ma io penso che sei più in alto di me, anch'io. Ma tu non sai dove abito. Eia. Sì, è più in alto, Antonio, è più in alto, Antonio. E Natalino risulta più basso. Ho più o meno 7 uguali, più o meno, riferrappa. Vabbè, io adesso ho l'antenna tutta messa male. Quando piove mi entra l'acqua nella cosa e mi salgono le stazionali a 2 e mezzo. Ho dovuto comprarmi l'accordatore perché quello che avevo l'ho regalato a un amico. E quindi me l'ho dovuto prendere uguale. Perché quando piove se no non potevo modulare. Finché non piazzo l'antenna devo usare l'accordatore. Vabbè, te li accorda l'apparato, ma in antenna ce l'hai sempre stazionata. Sicuramente non è stata isolata bene, Natalia, perché ormai ti entra acqua. Ce l'ha Marco Condor, uguale alla tua, roba di 5-6 anni, dice che non è mai salito di stazionare, nulla. probabilmente dall'armadietto, però che la bobina l'aveva vulcanizzata bene, dove c'è la bobina che aveva vulcanizzato bene e non rientra acqua di nulla. Marco Scorpion ce l'aveva uguale e gli ha fatto lo stesso difetto che ha fatto a me. Io non ho vulcanizzato niente, perché cosa vulcanizzi? Se ne togli l'affare, poi magari si scioglie la vulcanizzazione come scalda. No, non andare da sopra, entra dal gommino che c'è sopra, mi piena dove c'è la resistenza lì e me la manda in corsa. Deve esserci anche il buco otturato, perché non svuota subito, ci mette un bel po' quando piove a svuotare, perché io me ne accorgo dalle stazionali, a un certo punto non ne ho nulla. E io, per non sbagliare, dove c'è il gommino l'ho tutto vulcanizzato lo stesso, vulcanizzato e astratto, di modo che non entrava. Io sono un po' pignolo in queste cose, quando la piatto la vulcanizzo bene l'antenna, non guardo a spreco, niente, di passo un po' di giri di nastro, di modo che non entri l'acqua. E vabbè, succede, dai, a volte dalla freccia, non fare cose come dirti. Ma Marco Condor ce l'ha e mi ha detto, a me non me ne è mai entrata di acqua, me ne stavo parlando tutto l'altro giorno, eravamo insieme al quadrato, e mi ha detto, non me ne è mai entrata, le stazionali sono sempre quelle, sono, da quando l'ho piazzata. Anche qua è Daniele, non ha mai avuto problemi. E Marco Scorpione l'ha buttata via, io questa qui la devo buttare via, ne avevo una in campagna uguale, ce l'ho buttata, addirittura in campagna, lo sai cosa mi ha fatto la salsedine, il vento con la salsedine, mi ha marcito il PL femmina, dove attacchi il PL, e me ne farà drugato in terra, fatti un conto, sono antenne del cacchio. Beh sì, il materiale, diciamo che come antenne va anche bene, però il materiale che è troppo fino, capito, l'antenna di per sé dà dei buoni segnali eccetera, però il materiale che è molto fino, e vabbè, lo faceva anche alla Mantova quella, se ti ricordi, dove c'era quella placca che dove attaccava il piede si arrugginiva tutto. Ma turbo era? Ma turbo mi dà tutta tanta marcita, mi ha giù parata tre volte la turbo, o me ne paravano lì i radiali, il piattello dove c'erano attaccati i radiali, quello mi si è marcito, pulito, verniciato, d'ora marcito, tre volte ne l'ho scesa l'antenna. E invece l'altra lì, questa che ho preso io c'era l'acciaio, adesso non si marcisce più, la parte di giù c'era tutto l'acciaio, poi metti il piantone, dove c'è il piantone, tutto qua è l'acciaio, dove c'è la molla eccetera. Vedi, la Mantova 5 non mi ha fatto mai nessun difetto, è ancora su, sopra 12 metri di palo, ed è ancora anch'io. Anche a me, io anche senza radiali modulavo 1-1 di stazionare tutti i canali, non saliva manco di stazionare, però l'ho tolta perché dove mettevi i radiali c'era spaccato e alla fine non faceva più a mettere, era un casino, bisognava rifare tutto il pezzo col turno eccetera, quindi non faceva più da. Non attaccavo perché c'aveva il pezzo di sotto, pensando che andasse bene, invece aveva anche quello un difetto, c'aveva il filo staccato all'interno, quindi non ha potuto rifarlo. La mia ci sono ancora i radiali, tutto. Se ne sta vedendo quell'antenna. È un peccato, bisogna andare tu nella natta lì e te la pulisci bene e poi o te la vendi oppure magari la tieni in riserva. No, piazzo la Game Master, la piazzo bene e basta, qua non le puoi mettere di quelle antenne, sono troppo pesanti. Anche la J-Pole è bella come antenna, ma è pesante, è troppo alta. Qua c'è gente che abita nell'attico e se è così alta fischia quando c'è vento, fa il casino. L'ho vista meno già. Io non so dove, se no sarei passato a guardare la cosa. Bella. Ce l'ha quel mio parente, Carlo è mio parente, ce l'ha lui quella J-Paul. Scappa, già la vedi, la sai dove la vedi? Su dall'autoscuola in via degli astronauti, da lì la vedi. A tiro un capo la vedi. Ah, sta pistola. Scappa. No, ho detto la tua, cavolo, l'ho vista già, è molto robusta, La voglia. Ho fatto di giustizia da acciaio la mia. No, io l'ho presa quella perché mi sono fatto un giro, c'era la Grazioli, ero indeciso sulla Grazioli o su quella lì. Ho preso quella perché la Grazioli mi ha assustato quando ho visto tutta quella bulloneria che c'era, che portasse qua, è un casino, a piazzata. C'erano bulloni, vitti, ma di tutti di più. Già se l'ha potuto fare Mattesio. Non è un problema, sapete dallo schema. Non è questo il problema. Ma vai tranquillo che quella che hai preso va bene. Sì, mi danno dei bei segnali, anche se non l'ho messa molto alta, tanto perché, ti ripeto, lì se fischia c'è gente che abita nell'attico ed è anche l'avvocato, quindi mi va del casino. Ma non penso che fischi, anche quando va di vento, infatti tu l'hai messa più bassa, l'hai messa. Anche quando va di vento, secondo me, non fruscia. Può darsi che fischia anche questa, non lo so, però... Più alta e più vento prende, in teoria. Cioè, un po' più bassa la Lucky Master. Ma questa va bene, cavolo, è un'altra cosa. Quanto è alta? 7 metri, come le altre antenne. No, vai tranquillo che va bene. L'ho vista, è bella lucida anche. Secondo me, io ne ho visto una, che ce n'è una qua vicino in questa zona, piazzata. Ma vi sarà un vent'anni, vi sarà 30 anni, è sempre in chivi. Posso capire anche, magari era quella di Nino. Non lo so, ce n'è una qua in zona, ce n'è piazzata. Sì. Lo vede, la professa che va alla chiesa. È qua vicino, Non mi ricordo la via. Ho capito. Vabbè, comunque... diciamo che questa qua che c'ho io è tipo la Mantova 1, capito? E come la Mantova 1, c'ha 4 radiali, è robusta come antenna, i tubi non sono di quelli bulli, capito? Vabbè, io vi lascio, che peso mi sta chiamando, me la porta lui già tardi, poverino, Ci sentiamo, alle 8 di solito, c'è adesso, mi sono trattenuto, perché ce l'avete voi, dai. Vi saluto tutti, dai, buon continuo questa sera, grazie per la calamità, saluto tutti cordialmente e distintamente, ciao. Comunque quel progetto lì mi sa che esiste più di 30 anni, quindi... ciao, risentiamo. Ciao Gianni, alle prossime. Dai, vi lascio anch'io, me ne passo in quel RT. Ciao Pomponio, ciao Antonio e chi altri ci fosse in ascolto. Alle prossime, quel RT per me. Ciao, Attari, Pompo ci sei. Ciao. Chi è avanti? Attenzione, binario 10, K. 10, c'è nessuno? Cambio, c'è nessuno? Cerca 10, controllo radio, cambio. Roberto, Roberto Quadrato, attento. Claudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio. Attenzione, Claudio Sparvero, ci sei? C'è nessuno? Cambio. Cambio, attenzione, cambio. Attenzione sul canale 10, cambio, per un controllo radio, cambio. Claudio Sparviero, Roberto Quadrato, Gianni doppio numero, non vedi su, Malazzurri, 1-3 cambio, 1-3 cambio, C7 cambio, ora. Prova microfono, 1-2-3, cambio. Prova microfono degli anni 50, cambio. Ma oggi compreso, ciao a tutti, ciao.